Certo. Ciao, avevamo dato la notizia in questi giorni di uno sgombero, se ci vuoi raccontare cos'è Villarotte, cos'è successo e dove, che state facendo adesso? Sì, allora Villarotte occupata era un abitativo più un laboratorio politico e sociale che era l'unico posto liberato che c'era nella città di Bari. E con un blitz e un sequestro siamo stati sgomberati in maniera lampo praticamente l'altro ieri. Oggi ci sono i lavori di muratura della villa, che fra l'altro, essendo una villa di fine 800, è un bene protetto dalla sovrintendenza dei beni culturali, e loro vogliono murare, vogliono togliere tutte le imposte, le finestre delle porte, murarla completamente e blindare la porta, quindi fanno anche un danno architettonico serio a un bene dell'Ottocento. Noi stamattina siamo qui a impedire passivamente che l'entrata dei camion per fare i lavori, e loro stanno facendo, la polizia sta facendo veramente un abuso sulle persone a cui è già stata tolta la casa, e stanno impedendo farli entrare a prendere le ultime cose, perché oggi, stamattina c'era l'appuntamento per far prendere le ultime cose che erano rimaste dentro, essendo stati noi buttati fuori nel giro di poche ore, ma la polizia glielo sta impedendo facendo un ricatto schifoso, dicendo che praticamente se noi non facciamo entrare i camion che a loro servono per fare i lavori, loro impediscono alle persone di prendere i propri documenti, le loro cose importanti, tutta la loro vita praticamente che era all'interno dell'edificio. Noi adesso siamo qua fuori, stiamo facendo resistenza passiva, però ovviamente è una situazione straziante, perché ci sono le persone che vivono dentro che non vogliono perdere, diciamo, anche le loro cose, quindi è una situazione veramente difficile. Senti, l'esperienza di Villarotte quando è cominciata, quanto è durata? Sì, noi abbiamo occupato più di 2 anni fa, a novembre del 2011, e niente, questa casa era sia un abitativo per senza fissa dimora, migranti, ma anche studenti e precari, e inoltre noi era un posto molto aperto al quartiere, c'era un orto sociale, il campo da calcio per i bambini del quartiere, una biblioteca sociale, il cinema, cioè uno dei posti più amati di questa città, dove si poteva fare cultura in maniera totalmente gratuita e libera. E è stato chiuso perché la provincia ha fatto un esposto, e alla fine il GIP ha decretato il sequestro del posto, decidendo così di farlo tornare all'abbandono in cui è stato per 15 anni, perché in questo posto c'era la segreteria di una scuola superiore, e poi è stata chiusa e abbandonata per 15 anni, dentro c'erano soltanto topi e spaccio. Infatti il quartiere si è assolutamente ribellato, provincia e comune sono stati attaccati da tutta la cittadinanza per un gesto che non ha assolutamente alcun senso, visto che si tratta di restituire semplicemente l'immobile all'abbandono in cui versava prima. E quindi adesso, ricordiamolo, voi siete in presidio davanti ai camion, insomma, che vogliono murare questo posto, e anche per permettere, insomma, alle persone che ci vivevano di prendere le loro cose, ma anche perché appunto questa operazione di muratura non avvenga, dico bene? Questo certo, perché è una vergogna danneggiare un edificio semplicemente perché non si vuole che la gente si riappropri di ciò che è suo di diritto, perché questi sono spazi pubblici abbandonati che non verranno mai assegnati, perché nessuno si preoccuperà mai di fare dei lavori per riconsegnarli alla società. Lavori che tra l'altro abbiamo fatto noi in questi 2 anni, impedendo che crollasse una parte dell'edificio a causa di alcune piante infestanti che lo stavano spaccando. Senti, se non vuoi aggiungere niente, noi per ora ti ringraziamo, ma vi chiediamo, insomma, di tenerci informati su come va avanti la mattinata. Sì, noi lo faremo, faremo in modo che la polizia non faccia alcun tipo di ricatto sulla debolezza, diciamo, delle persone che hanno già perso molto. Noi ti ringraziamo e aspettiamo vostre notizie. Va bene, grazie a voi. Ciao. Ciao.